Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Come ricordava il nostro GR24, siamo in diretta dal Vinitaly, come ogni anno, per raccontare uno dei settori che va meglio in assoluto in questo paese, uno dei settori, cito il rapporto Mediobanca, uno dei pochissimi settori italiani che ha continuato ad aumentare gli investimenti anche negli anni della crisi. 49esima edizione, chiaramente un'edizione particolare perché è quasi un viatico per la parte vitivinicola, per quello che sarà poi l'Expo, dove Vinitaly sarà presente. Ne parleremo tra brevissimo con il presidente di Verona Fiere. 56.000 visitatori stranieri per un totale di 155.000 visitatori attesi, oltre 4.000 espositori, e i visitatori stranieri, buyers, acquirenti, distributori e anche produttori vengono da 120 paesi nel mondo. Di questo parleremo anche di Pirelli. Chiaramente la notizia l'avevamo già anticipata e poi è stata poi confermata, ma vi erano tutti gli elementi perché venisse confermata la cessione della quota Rosneft ai cinesi di China Chemical. Il titolo soprattutto 2% quasi, l'1,97% di rialzo a 15,53 euro per azione. Perché cito il valore del titolo? Perché l'operazione è stata fatta a 15 euro per azione, ossia verrà costituita la nuova società che acquisterà da Camfin le azioni Pirelli, lancerà un'OPA a 15 euro per azione sia sulle ordinarie sia sul risparmio, con l'obiettivo di togliere il titolo da Piazza Affari. L'esborso complessivo dovrebbe essere di circa 5 miliardi di euro. Gli azionisti quindi di Camfin e di CNRC, che sarebbe la controllata di Chemical China, hanno firmato infatti ieri l'accordo per una partnership industriale di lungo tempo. A questo punto Pirelli vede ridimensionato il ruolo dei russi, che attualmente avevano il 50% della Camfin, manterranno una piccola quota, e Rosneft però dovrebbe uscire a questi livelli di prezzo con un guadagno di quasi mezzo miliardo, in realtà sono 400 milioni di euro, visto che la quota è valutata a un miliardo e a suo tempo la pagò 553 milioni di euro, quindi una bella plusvalenza per i russi nel cedere questa quota. Il presidente del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha dichiarato: l'accordo con Chem China rappresenta una grande opportunità per Pirelli, garantito sviluppo e stabilità strategica, nessun impatto sull'occupazione, ha scritto anche una nota ai dipendenti Marco Tronchetti Provera. Vorrei partire proprio da qui, con i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, quelli che ogni giorno vengono realizzati assieme a Radio Dimensione Suono. Il commento di oggi è del vice direttore Alberto Orioli ed è dedicato proprio all'operazione Pirelli che vi abbiamo appena raccontato in sintesi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La Pirelli dunque andrà ai cinesi. Sarà il colosso del pubblico di Pechino, Chem China, attraverso una nuova società che si chiamerà Bidco, a lanciare un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto, sul gruppo, con un'operazione che vale oltre 7 miliardi di euro a 15 euro per azione. Il titolo oggi ha superato già quella soglia di prezzo a 15,07 euro, con un balzo in mattinata del 3% e anche più. Segno che il mercato, non è ancora chiaro se a fini solo speculativi o effettivamente reali, scommette su una contropa di qualche altro competitor europeo non troppo incline a dare ai cinesi una porta d'ingresso in un mercato così ricco e strategico. La prima parte dell'azione di Chem China prevede l'acquisto del 26,2% della quota detenuta da Camfin in Pirelli. Camfin è la società scatola con cui il patrono del gruppo, Marco Tronchetti Provera, controlla appunto l'azienda dei pneumatici. Anche i soci Camfin, Unicredit, Intesa, oltre ai russi di Rosneft e altri partner privati, parteciperanno al capitale della nuova società Bidco. L'obiettivo è creare una impresa con il 65% 25% di capitale cinese e il 35% di capitale italo-russo e poi dividere in due la Pirelli, con una prima società focalizzata nella parte ad alto valore aggiunto delle gomme per auto e una seconda centrata sui pneumatici per camion e macchinari pesanti, con l'obiettivo di fonderla con la Aeolos, la società cinese che già adesso opera in questo mercato, che così passerebbe dalla 28esima alla 4ª o 5ª posizione nella classifica mondiale. L'accordo prevede anche una clausola statutaria a tutela dell'italianità dell'impresa e impone l'obbligo del 90% del capitale per decidere su sede, investimenti in ricerca e management, che per ora risultano blindati come italiani. Speriamo che basti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ed è appunto questa la domanda che molti si stanno ponendo, era la chiosa del commento di Alberto Orioli. Speriamo che basti questa clausola per mantenere l'italianità della Pirelli, fermo restando che non si possono chiedere sempre investimenti o lamentarsi degli scarsi investimenti stranieri in questo paese e poi criticare se arriva un investimento così importante in un gruppo come Pirelli. Altra cosa è tutto il perimetro occupazionale e su questo, ripeto, speriamo che basti la clausola del 90% di accordo prima di toccare qualunque tipo di sede per quello che riguarda la Pirelli, il 90% del capitale per decidere su sedi, investimenti e anche tipologia dei manager. Le altre notizie di questa giornata: è intervenuto oggi al Parlamento europeo il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, ha detto che l'inflazione resterà molto bassa o addirittura negativa nei mesi a venire perché la caduta dei prezzi del petrolio continuerà a influenzare i dati fino a fine anno. E a fine anno si aspetta Draghi una leggera ripresa dell'inflazione e quindi tassi che resteranno bassi. I tassi bassi, ha detto Draghi, si trasmetteranno all'economia reale perché abbasseranno i costi con cui le famiglie e le imprese possono ottenere prestiti bancari, ammesso che li ottengono, aggiungiamo noi. Ed era cautamente più ottimista Mario Draghi, ha detto che rispetto a 3-4 mesi fa si vedono i segnali della ripresa economica, che la crescita dell'Unione Europea sta guadagnando slancio e che siamo di fronte a una ripresa rafforzata rispetto appunto alle previsioni di fine anno scorso. La vicenda greca, che ormai è oggi una vicenda Tsipras-Angela Merkel, l'incontro non ha portato a una modifica, lo hanno detto chiaramente, lo ha detto soprattutto il portavoce della cancelliera tedesca Steffen Seibert, ha detto l'incontro di oggi fra Angela Merkel e Tsipras non sostituisce l'Eurogruppo. I media greci oggi citavano anche la restituzione del prestito forzoso fatto al Terzo Reich, 11 miliardi di euro tra le richieste che i greci avrebbero avanzato, dubito che possa andare a buon fine. Tsipras arriverà con un elenco di riforme, le pensioni, l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, aumenti dell'IVA e delle tasse su alcuni prodotti. Nel frattempo il fabbisogno greco continua a aumentare, 847 milioni di fabbisogno, un deficit quindi a gennaio di 847 milioni, pensate che un anno fa era meno della metà, era 336 milioni di euro. Veniamo all'Italia, sempre molto buono il dato sul nostro spread a 105 punti, sostanzialmente il BTP a 10 anni italiano rende l'1,22% lordo, sì, per cui praticamente siamo sempre a livello di minimo storico. Ancora il Premier Matteo Renzi ha assunto oggi, come ampiamente annunciato, l'interim alle infrastrutture. Per quello che riguarda invece la Banca Centrale Europea e gli effetti che avrà, oggi il governatore della Banca Centrale Italiana, mi riferisco a Ignazio Vischi, ha dichiarato che il programma è destinato per sua natura a smorzarsi quando avrà raggiunto l'obiettivo sui prezzi, cioè non è che continuerà, traduco io, a calare il rendimento delle obbligazioni oltre un certo livello. E poi ha detto: attenzione, sono decisivi gli investimenti dei privati e soprattutto anche in infrastrutture. Vi sono, dopo molti anni di crisi, segnali di miglioramento delle condizioni macroeconomiche dell'area dell'euro e in Italia. La riduzione dei prezzi del petrolio, le misure di espansione monetaria della BCE e la discesa dei tassi di interesse, il deprezzamento del cambio dell'euro stimolano la domanda globale. Anche se non pochi rischi interni ed esterni all'area ne condizionano la ripresa, assistiamo a un recupero di fiducia. Ma il ritorno a tassi di crescita in grado di generare maggiori posti di lavoro non può essere che graduale. Passa necessariamente per un aumento sostenuto e consapevole della spesa per investimenti privati e pubblici nazionali ed europei. Ancora, sta facendo discutere, ve lo ha già raccontato il nostro GR24, dicevo, sta facendo discutere la dichiarazione del ministro al lavoro Poletti, resa a Firenze, riferendosi alle vacanze scolastiche. Ha detto: un mese di vacanza va bene, ma non c'è un obbligo di farne tre, magari uno potrebbe essere passato a fare formazione. È una discussione che va affrontata. Vogliamo promuovere l'alternanza scuola-lavoro e quindi vogliamo fare in modo che ci sia la possibilità per i giovani di fare e durante l'anno scolastico e durante l'estate qualche ora di esperienza nell'impresa, e quindi un'idea di riconsiderazione e rivalorizzazione del lavoro che un po' per volta nel tempo si è perduta. Noi vogliamo fare un'operazione forte di lancio nel nostro paese dell'alternanza scuola-lavoro, perché crediamo sia un buon modo perché i giovani maturino maggiori opportunità per l'occupazione e dall'altro lato abbiano un'idea più chiara del loro futuro, perché molto spesso scelgono l'università, scelgono i loro percorsi senza avere sperimentato concretamente che cosa significa. Così il ministro Poletti, che ha anche aggiunto: i miei figli d'estate sono sempre andati al magazzino della frutta a spostare le casse, sono venuti su normali, non sono speciali. Sì, devo dire con un brevissimo inciso che il tema delle vacanze scolastiche l'abbiamo affrontato già altre volte. C'è anche un tema banalmente delle famiglie che, quando i bambini non sono a scuola, devono pensare a chi gestisce i bambini piccoli. C'è un esborso economico non da poco. Se qualcuno ha un'idea di cosa possa costare una babysitter in questo paese, ammesso che non se lo possa permettere, forse allungare ogni tanto anche il tempo di permanenza da scuola, oltre che essere, e sono d'accordo con il ministro, un'opportunità per incontrare il mondo del lavoro, è anche un'opportunità in più per le famiglie. Visto il periodo di crisi, 3 mesi, possiamo dirlo, sono un po' troppi, 3 mesi di vacanze tutti fatti così. Allora, Vinitaly, iniziamo la lunga pagina dedicata al vino, 49esima edizione di Vinitaly, che si è aperta ieri. Ringrazio subito per averci raggiunto negli studi di Radio 24. Siamo al padiglione 8, I2, I4, per chi volesse venirci a trovare, se non ubriaco, perché ne abbiamo già abbastanza di gente che batte i pugni davanti allo studio. Ringrazio il presidente della Fiera di Verona, Ettore Riello. Buonasera, presidente, e grazie. Buonasera. Dunque, 4.000 espositori, 155.000 visitatori attesi e l'Expo alle porte. Prima di ragionare sul ruolo che ha il sistema fieristico, dopo le indicazioni che anche il vice ministro Calenda vi ha dato un mese fa, cioè diamo i soldi solo a un certo numero di fiere, voi siete tra questi, quelle che si aggregano, quelle che vanno all'estero, quelle che riteniamo strategiche, la scheda prima di tutto sull'andamento del settore vitivinicolo italiano. Il vino italiano è più forte della crisi, grazie all'estero, dove le nostre bottiglie sono sempre più apprezzate. Con i consumi interni ormai posizionati sui 30 litri l'anno pro capite, è chiaro che le nostre aziende del vino siano proiettate sempre più oltre confine. Una tendenza evidenziata dallo studio di Nomisma, da cui emerge che negli ultimi 10 anni l'export di vino italiano è aumentato dell'88%, trainato dall'incremento delle vendite degli spumanti, più 263%. L'analisi Nomisma, condotta su 46 imprese vitivinicole, cooperative escluse, che rappresentano oltre 2 miliardi di euro di fatturato, rileva come la propensione media all'export del settore vitivinicolo si avvicina al 50%, ma supera il 60% per aziende con oltre 50 milioni di fatturato, che in Italia sono meno di 30. Inoltre, la redditività delle aziende esportatrici aumenta in modo proporzionale alla propensione all'export. Un export del vino, che nel 2014 ha toccato un nuovo record a 5,1 miliardi, più 1,4% sul 2013. Un risultato di tutto rispetto se si pensa al forte impatto della crisi in Russia, meno 10,4% delle vendite in valore, e al calo pronunciato della Germania, nostro primo mercato, a meno 4,4% sempre in valore. Sono cresciute invece le spedizioni verso gli Stati Uniti, più 4,4% in valore, a 1,1 miliardi di euro, e nel Regno Unito, più 5%, a 600 milioni di euro. Vero e proprio boom, più 20%, delle vendite all'estero dello spumante, con un più 90% in Cina e un più 45% nel Regno Unito. Infine, il vino piace anche alla borsa. Secondo l'analisi Mediobanca, dal gennaio 2001 l'indice del settore vitivinicolo è cresciuto del 336%, ben al di sopra dell'87% segnato dai listini mondiali. Inoltre, le quotazioni dei 10 marchi italiani presenti sull'IVEX, la borsa internazionale dei grandi vini da investimento, sono cresciute negli ultimi 5 anni del 21%. Un risultato da podio, dopo quelli di Borgogna e Champagne. Allora, questi dati confortanti, no, sorrido perché c'è un ascoltatore che da sempre ci insulta, che scrive: ma cosa, lo dice in maniera un po' più volgare, c'entrano le babysitter con i ragazzi che vanno a fare apprendistato nelle aziende? Ovviamente non è riferito a loro, un conto è la scuola per i bambini piccoli, che ha comunque dei tempi di vacanze, a nostro avviso, molto lunghi. Altra cosa è il ragionamento che ha fatto il ministro Poletti dicendo riduciamo le vacanze vere e proprie scolastiche e facciamo lavorare i ragazzi nelle aziende. Ma torniamo, facciamo avere esperienze ai ragazzi nelle aziende. Torniamo a Vinitaly. Riello, l'edizione è sicuramente un'edizione di successo. La piattaforma che voi volete portare, riuscirete anche a svilupparla intanto in occasione dell'Expo e poi su mercati internazionali? Perché poi di questo stiamo parlando, con un dollaro di nuovo forte, fortissimo, un euro debole, bisogna andare ancora con maggior vigore in quei mercati. Prego. Credo che ormai i numeri che abbiamo sentito sono numeri veramente straordinari, che riguardano un settore che sta così avendo un successo superiore a tanti altri. Da sempre abbiamo individuato, almeno in questi ultimi periodi, un grande sbocco per questo mondo all'estero, per cui tutte le iniziative che sono state poste nella piattaforma del Vinitaly sono state dedicate a favorire il contatto verso il mondo estero. Quindi oggi non è un caso il successo, è la stratificazione di un percorso fortemente voluto, perché il mercato italiano non era più sufficiente. Abbiamo un vantaggio straordinario, che i produttori italiani hanno avuto una capacità straordinaria nella crescita qualitativa del loro prodotto. Oggi non siamo secondi a nessuno, abbiamo quindi sicuramente colmato un gap dal punto di vista qualitativo con i francesi, però dobbiamo forse investire un po' di più nella comunicazione e nel marketing per riuscire ad avvicinarli sul piano del prezzo. Noi siamo il primo paese esportatore di vino, siamo il secondo per valore, il primo per volume e il secondo per... Quindi partiamo sicuramente da una piattaforma molto solida che continua. Abbiamo dedicato più del 34% di investimento all'incoming e oggi abbiamo quasi il 40% di visitatori provenienti dall'estero, quindi credo che questo sia veramente il grandissimo successo. Qualificati, dealer, importatori, quindi sicuramente gente di business che può favorire il nostro prodotto. Ecco, girando per i padiglioni, parlando con gli operatori, si notava, però molti erano due settimane fa al Pro Wine a Düsseldorf, se non ricordo male, si è appena concluso una settimana fa, e si notava come comunque quando l'Italia va in questi mercati esteri si presenta ancora in ordine molto sparso. Cioè la Francia fa un padiglione, lo chiama Francia, è tutto bianco, rosso e blu, dentro ci sono tutti, uno capisce cos'è la Francia, i vari terroir, arrivi dall'Italia e c'hai un pezzo di ministero, un pezzo di ICI, un pezzo delle regioni, un pezzo di Chianto per i fatti suoi. Ecco, voi avete un'iniziativa in corso o volete sviluppare un'iniziativa che porti il vino italiano nella sua forza complessiva, magari legandolo anche, come veniva suggerito dal ministro Martina, a altri punti di eccellenza di forza? Penso alla moda italiana, penso al legno arredo, questo penso passo, al settore alimentare. Prego. Questo passo lo vedo un passo probabilmente successivo, perché i punti di riferimento tra una moda, il vino e i sistemi di distribuzione sono credo molto diversi, per cui potrebbe esserci, dico, un elemento di trascinamento, ma vedo difficile riuscire a coniugare fiere dello stesso tipo. La verità è che da sempre c'è stato un atteggiamento di distribuzione delle risorse in modo veramente assolutamente inaccettabile, credo, perché era più destinato ad accontentare tutti che a favorire qualsiasi tipo di attività. E questo è il vizio grosso. Con l'ultimo governo, facendo una forzatura importante, che però abbiamo fatto da diverso tempo, perché riteniamo che le fiere siano una leva della politica industriale, non siamo mai stati ascoltati da nessuno. Solo l'ultimo governo, con Calenda, con il progetto straordinario del Made in Italy, il vice ministro Calenda, abbiamo trovato sponda. Con lui c'è stata un'iniziativa molto importante, ma sono stati anche loro decisi a voler concentrare le risorse su una serie di prodotti fieristici dove ci sono delle tecnologie, dei prodotti che abbiano un senso rispetto alla dimensione, ma soprattutto che abbiano anche una valenza sulla logica sociale del territorio. 50 milioni scarsi, 48 sono 30 le fiere italiane, diverse tecnologie, molto dedicate al food del vino, perché sicuramente è un settore importante, quindi direi che sta cambiando passo anche il governo insieme a noi, e credo che questa debba essere la filosofia. Immagino che questo commento positivo al governo mi varrà altri sms di filo governativi renziani, pensatela come volete, noi ci limitiamo a raccontare. No, è la verità, no, filo governativi renziani no, è la verità che la verità. È la prima volta che si vede un'operazione di questa natura, io non l'ho mai vista, ecco. Questo e non sono d'accordo, un giovanotto. E non è un giovanotto. Allora, senta Presidente Riello, restiamo però al tema, al fil rouge di questo Vin Italy, che ha aperto i battenti con un dollaro, un rapporto con un rapporto di cambio 1,05 nei confronti del dollaro. Non sarebbe il caso, al di là dei benefici che immagino tutti voi avrete, fermo restando che non puoi andare a rinegoziare alcuni contratti di volta in volta perché non funziona proprio così, e cambiare il listino ogni mese, non è il caso anche come Vin Italy di organizzare un'iniziativa negli Stati Uniti in questo momento per arare il terreno finché è fertile? Beh, abbiamo avviato una serie di progetti all'estero e da diverso tempo negli Stati Uniti facciamo un'attività di promozione molto molto importante, che è destinata anche poi, diciamo, a una sensibilità nei confronti dell'Expo, quindi stiamo facendo attività per convogliare il più possibile i visitatori per l'Expo. Però in America in particolare, ma non credo, non è solo un tema di dollaro basso, ancorché finalmente, dico, perché è una leva, dico, straordinaria avere la competitività in questo modo, sicuramente stiamo facendo dei progetti verso l'estero. Abbiamo anche qui proprio presenti alcuni rappresentanti del comune di Miami, perché Miami sta diventando una delle città di fortissimo sviluppo negli Stati Uniti e sta convogliando un po' tutti gli investimenti. Potrebbe essere un centro di grande riferimento per tutto il vino Nord, Centro e Sud America, se riuscissimo quindi in questo progetto a realizzare una sorta di Vin Italy di Miami, credo che potrebbe essere veramente una grande opportunità per tutti i produttori. Un'ultima nota, sarete presenti all'Expo come Vin Italy? Direi proprio di sì, che diamine, diciamo, un anno che ci lavoriamo appresso, quindi abbiamo sicuramente con il Ministero delle Politiche Agricole sviluppato un progetto unico, credo, perché siamo noi che gestiamo insieme a loro il padiglione del vino, sono 2000 metri quadri dove fortunatamente, a differenza di giovani paesi su questo prodotto, noi possiamo raccontare una grande storia della tradizione del vino in Italia, quindi ci sarà una parte di comunicazione e una parte commerciale dove così consentiremo alle varie imprese di poter avere un contatto e una finestra su questa occasione straordinaria con più di 20 milioni di visitatori, quindi assolutamente sì. Allora, in bocca al lupo per l'Expo, intanto vi do anche il valore del dollaro su euro, visto che citavo il valore 1,05-1,06, vedo che ci sono ascoltatori che precisano subito, è 1,09, era, diciamo, il racconto dell'euro in questi giorni. Comunque sicuramente l'euro resta debole e il dollaro resta forte, anche se a quota 1,09. Grazie intanto al presidente della Fiera di Verona, Ettore Riello. Adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi iniziamo a parlare con i produttori, con chi il vino lo fa, e mi riferisco quindi al gruppo Santa Margherita, al consorzio della tutela del grande caso del vino degli ultimi anni, il Prosecco, ha fatto più 260% di crescita negli ultimi anni, e quindi con Innocente Nardi, e quindi Santa Margherita, Allegrini e il Prosecco dopo il meteo e la viabilità, 349 dopo il meteo e la pubblicità, scusatemi, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Sette 40 minuti di nuovo in diretta con Focus Economia dal Vinitaly, padiglione 8, stand I2 e I4. Allora, prima di arrivare ai big, nel senso che c'è il gruppo Santa Margherita, avremo il gruppo Antinori, il gruppo Zonin, cioè gruppi vinicoli che fatturano più di 100 milioni di euro di fatturato, che sembra poco per altri settori ma è moltissimo nel settore vitivinicolo, vorrei partire proprio con Marilisa Allegrini e con Innocente Nardi, perché il fatturato è di 30 milioni di euro quasi, Allegrini con 4 milioni e 300 mila bottiglie, mentre per quello che riguarda il mondo del Conegliano Valdobbiadene stiamo parlando sostanzialmente di 79 milioni di bottiglie prodotte. Però Allegrini, questo dollaro forte vi darà un vantaggio reale o è più quello che noi raccontiamo per altri tipi di categorie merceologiche, perché voi non andrete troppo a toccare i listini nelle aree dollaro a partire dagli Stati Uniti? Ma sicuramente i listini non andremo a toccarli, però ci darà un vantaggio competitivo enorme, e quindi siccome il prezzo sugli scaffali in America è una variabile molto molto importante, riusciremo ad avere una fascia di prezzo che ci permetterà di fare dei numeri. Negli ultimi 10 anni abbiamo sofferto moltissimo per la forza dell'euro, e quindi questo momento di cambio è veramente il benvenuto. Allora, su questo vorrei sentire anche chi rappresenta il consorzio tutela del Conegliano Valdobbiadene. Riuscirete a penetrare maggiormente certi mercati area dollaro, oppure anche in questo caso è più un effetto così che noi raccontiamo guardando i cambi, i rapporti di cambio, ma voi molti contratti li avete già chiusi? Beh, questo è vero, molti contratti sono chiusi, però è altresì vero che essendo una offerta molto parcellizzata, in questo momento sto riscontrando dai responsabili vendite delle aziende del Conegliano Valdobbiadene un riscontro diretto, proprio perché il vantaggio competitivo derivante da un circa 30% di svalutazione chiaramente favorisce l'export nella direzione in modo particolare Stati Uniti e Inghilterra. E quindi su questo attenzione a cantare vittoria troppo presto. Ci ha raggiunto, e lo ringrazio perché so che sta avendo dei giorni particolarmente intensi a Vinitaly, ma non per il tasso etilico, per l'insieme di stand che deve visitare, il ministro all'agricoltura Maurizio Martina. Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie per averci raggiunto. Si stava ragionando dell'effetto dollaro, chiaramente che è il tema portante in questo momento in questo Vinitaly, però ne approfitto della sua presenza per usarla tra virgolette come raccordo tra questo Vinitaly e l'Expo che, se Dio vuole e scandali permettendo, dovrebbe partire, anzi partirà dai, il primo di maggio e quindi fra poco più di un mese. Che qual è il, se esiste un ponte tra questo Vinitaly, vista la penetrazione, la presenza, il numero di stranieri presenti, e l'Expo? Beh, intanto in Expo ci sarà un padiglione del vino, come abbiamo raccontato in queste ore, un padiglione che racconterà l'esperienza vitivinicola italiana. Lo farà a partire da un percorso educativo al vino italiano. È un lavoro che verrà organizzato attraverso l'utilizzo dei cinque sensi e nel racconto della straordinaria biodiversità italiana. E queste due, diciamo, questi due percorsi, queste due leve serviranno per raccontare la potenza della nostra esperienza vitivinicola, e io sono convinto che in quegli spazi ci sarà anche una biblioteca del vino che darà modo in particolare a tanti consorzi, a tanti territori di presentare le proprie realtà. Qui non stiamo parlando della singola impresa che modello Vinitaly giustamente viene e presenta il proprio prodotto. In Expo noi raccontiamo l'intera esperienza di un paese. E già oggi, ad sentire anche tanti consorzi che Vinitaly in queste ore sono qui presenti, già oggi ci sono dei punti di connessione straordinaria tra sistemi territoriali, il semestre espositivo e anche delegazioni straniere che già costruiscono ponti, rapporti grazie ad Expo. Ecco, su questo però, dicevo prima del suo arrivo con il Presidente della Fiera, la critica che ancora ascoltiamo da alcuni produttori è, e citavamo il caso del Pro Wine di Düsseldorf, che un paese come la Francia, che lo dico con massimo rispetto per i francesi, non ha un prodotto migliore del nostro, ha delle grandissime eccellenze e ci mancherebbe, però insomma ce la battiamo bene e ce la giochiamo bene. Però la Francia, quando va a Düsseldorf, quindi sull'importantissimo mercato tedesco e delle corone, che ci attendiamo che si svalutino anche quelle nel nord Europa, si presenta con un padiglione con scritto Francia, tutto rosso, bianco e blu. Noi ci presentiamo con diversi istituti, l'ICE, il Ministero, le regioni, i singoli produttori. Ma è un mio sogno, sono troppo vecchio, ma ce la farò a vedere un domani in cui deve. Uno arriva all'estero e becca un padiglione con scritto Italia e non Regione Marche, Regione Sicilia, ICE, ma allora il tema c'è tutto e io devo dire che già in quest'ultimo annetto qualche passo in avanti vero l'abbiamo fatto. A me è capitato recentemente di andare a visitare la più importante fiera agroalimentare giapponese a Tokyo e ho visto una rappresentazione italiana che per me già è il segno di un cambio di passo. Eravamo intanto i primi, 150 espositori, e c'era anche un coordinamento organizzativo e comunicativo di tutto rispetto. Per quel che mi riguarda, per quel che ci riguarda, il piano straordinario per l'internazionalizzazione dell'agroalimentare con cui noi contiamo nel 2015 di fare grandi passi in avanti, piano che abbiamo costruito, coordinato con il Ministero dello Sviluppo Economico, è la leva vera per fare questo lavoro. Dentro quel piano c'è un lavoro serio sul segno unico distintivo. A un certo punto è stato un po' banalizzato questo strumento. Vorrei ricordarvi che la Francia ha fatto questo logo Bon Appetit e ad esempio in Giappone presentava se stessa la propria rappresentazione a partire da quel logo unico distintivo. Noi abbiamo in programma, proprio grazie ad Expo, nei mesi di Expo, di presentare questo segno unico, lo faremo. Ovviamente quella non è un'operazione fine a se stessa, deve servire esattamente a fare questa operazione anche di coordinamento comunicativo. Ci stiamo lavorando e io sono fiducioso. Senta, io non ce l'ho con le regioni italiane, o meglio ce l'ho quando sprecano i soldi. Riusciamo a bloccare anche le missioni delle regioni che non servono a nulla, a meno che tu non vada a San Marino o in Liechtenstein, forse ce la fai a bloccare le missioni delle regioni e andare fuori solo con le missioni di carattere nazionale a cui partecipino, ci mancherebbe, anche le regioni, i consorzi, nessuno le vuole, partecipino poco, con pochi delegati, ci mancherebbe, ma insomma senza questa presentarsi sempre un po' in ordine sparso a partire dagli enti locali. Guardi, non si possono bloccare attività che stanno in capo a... Dovete riformare la Costituzione. Esatto, c'è un tema di cui abbiamo parlato anche in queste ore che ha a che vedere col titolo quinto, con le funzioni di alcuni enti. Di certo non ci possiamo più permettere le scene di anni fa e anche di qualche viaggio recente di enti territoriali che vanno a fare cose sinceramente incomprensibili. Gli raccontiamo, ma non so, per esempio, cos'era l'Assemblea regionale siciliana che è andata in Qatar a Doha, no? 700.000 euro. Vabbè, non voglio tornare all'appuntamento come sempre per la classifica degli sprechi a venerdì, la nostra top 5. Torniamo invece sul tema del vino, un'ultima domanda per il Ministro e poi per gli altri ospiti, dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta dal Vinitaly. Allora, Ministro Maurizio Martina, lei ha incontrato centinaia di produttori in questi giorni, molti hanno fatto i complimenti per l'attività che il governo, lo dico così mi beccherò ancora del renziano, non me ne frega nulla, l'attività che il governo ha messo in piedi con il suo ministero e quello del viceministro Calenda, quindi soldi date alle fiere per razionalizzare questi investimenti dalle fiere più importanti per promuovere il Made in Italy. Dica lei ai produttori di vino che cosa vi aspettate che facciano loro, nel senso che io ho la sensazione che delle volte sono così bravi e così forti che rischiano un po' di sedersi sugli allori o di autoincensarsi. Ma io penso che loro sappiano che la qualità non è data per sempre e quindi bisogna continuare a scommettere su questa leva. Quello che voglio chiedere è di continuare davvero con passione a lavorare nel solco dell'esperienza fatta in questi anni. La storia del vino è la rappresentazione plastica che un settore in crisi negli anni Ottanta poi può diventare una grandissima eccellenza per questo paese. È un fatto, non è un racconto o un desiderata. E quindi, insomma, io uso l'esperienza del vino italiano per dire che questo paese ha delle leve straordinarie. Chiedo loro di continuare a lavorare con noi su questo, a non dare per scontato nulla e a sapere che abbiamo ancora grandissime cose da fare. Allora, la lascio ai suoi impegni istituzionali, grazie anche al Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina. Allora, il ministro ha detto non sedetevi, continuate a lavorare con noi. Vorrei iniziare con Ettore Nicoletto a ragionare proprio su voi. Siete il numero uno come vino, come singola marca di vino negli Stati Uniti con il Santa Margherita, con il Pinot Grigio. Quest'anno tra l'altro celebrate gli 80 anni di storia, come i nostri ascoltatori sanno, perché poi stasera la Zanzara trasmetterà dalla Gran Guardia a Verona. Tutto prenotato, tutto overbooked, fatturate 110 milioni di euro con quasi 20 milioni di bottiglie, 18 milioni e mezzo di bottiglie prodotte. Qual è la quota export vostra? Ma soprattutto vorrei ricollegarmi invece anche al tema di Allegrini e di Nardi. Sì, va benissimo il dollaro forte, l'euro debole, ma non ci aspettiamo, siamo rivoluzione di listino. Nicoletto. Allora, la quota export, buonasera innanzitutto, la quota export è il 63%, quindi siamo un'azienda fortemente orientata alle esportazioni. Io devo dire che sicuramente il dollaro forte aiuterà, lo vedremo nel corso del 2015, ma dico che l'Italia del vino, quella operosa, quella virtuosa, che ha sempre creduto investendo, è andata bene anche con il dollaro forte. Per cui sicuramente l'apprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro aiuterà, lo vedremo alla fine di questo 2015. Diciamo che ci sono delle precondizioni che ci rendono ottimisti, politiche monetarie in eurozona che sono particolarmente favorevoli, a partire dal quantitative easing, il denaro dovrebbe costare meno in linea teorica, appunto l'euro, la possibile soluzione in Ucraina della crisi che potrebbe riaprire le porte del mercato russo è un altro importante elemento, e poi dico anche questo Expo che sicuramente sarà una vetrina che dovrebbe funzionare da valorizzatore delle eccellenze del nostro sistema paese e anche un volano economico molto importante, per cui dal nostro osservatorio l'outlook è molto positivo. Allora, ancora un minuto, poi ci risentiamo dopo il GR24. I mercati di maggior crescita in questi ultimi 12 mesi, visto che puntualmente noi rifacciamo il conto, si sono confermati quelli in area dollaro o anche l'area euro è tornata leggermente a crescere, soprattutto in Nord Europa? Allora, guardi, noi abbiamo avuto una tenuta dell'export un po' su tutti gli 89 mercati in cui operiamo. Gli Stati Uniti, il Nord America sono cresciuti quasi a due cifre, quindi parliamo di un 10%, di un 9%, 9,5%, ma abbiamo anche registrato una crescita molto buona dalla macroregione Asia Pacific, quindi una crescita ben distribuita su tutti i mercati più importanti. E ne riparliamo dopo il GR24, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook e poi chiaramente Pirelli e il resto della borsa. Minuti di nuovo in diretta dal Vinitaly, dal padiglione 8 I2 I4. Vorrei concludere questa lunga pagina, come ogni anno facciamo, una volta all'anno, anzi due volte all'anno ci occupiamo anche del vino, con Ettore Nicoletto, riprendendo le parole che ha pronunciato poco fa in questi studi il ministro Martina. Non sedetevi, era un po' mia la pungolatura, ma insomma non sedetevi sugli allori e non date per scontato il successo che indubbiamente, come ricordava anche il rapporto Mediobanca, avete ottenuto come settore vitivinicolo. Quali sono le sfide che un gruppo come il vostro, che ha le spalle larghe perché fatturate 110 milioni e quindi in questo mondo siete grossi, quali sono le sfide e insomma gli elementi su cui non si può abbassare la guardia, Nicoletto? Ma allora, diceva bene l'ottimo, mi aggiungo al plauso di tutti, l'ottimo un altro renziano. Un ministro del fare, quindi benvenuto e lo ringraziamo per quello che ha fatto fino adesso. Non dobbiamo abbassare la guardia sulla qualità. Il sistema Italia ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 20 anni sulla qualità dei prodotti e questa ci viene riconosciuta in tutto il mondo, tra l'altro anche con uno stile molto distintivo che ci distingue in modo veramente molto elegante rispetto alle produzioni degli altri grandi distretti vitivinicoli mondiali. Io dico che dobbiamo investire sull'estero, ci sono dei mercati, ricordavo prima il Nord America, ma anche l'Asia Pacific, che stanno crescendo a ritmi vertiginosi. Ricordo che i consumi di vino negli ultimi 10 anni si sono spostati aspetti che mi sono scritto la percentuale, che non voglio sbagliare, si sono spostati dal 37% al 47% nei paesi terzi, quindi fuori dai confini dell'Europa Unita. Questo è un dato molto importante perché ci dice che molto probabilmente dobbiamo andare a raccogliere valore in questi mercati. Ma fusioni, quotazioni in borsa, acquisizioni, voi che avete tanti soldi? Allora guardi, di fusioni, quotazioni in borsa non sono in agenda. Magari qualche acquisizione per diventare più grandi, per poter competere, per sviluppare massa critica in mercati dove è necessario avere risorse per avere una posizione commerciale forte, però ecco, tutto il resto non è in agenda, dobbiamo sviluppare valore, c'è ancora molto lavoro da fare prima di una quotazione. E quanto acquisizione avete già in mente chi? Beh, ci sono moltissime regioni straordinarie che stiamo guardando con grande attenzione, che potrebbero complementare la nostra offerta. Per esempio? Tutte quelle che non sono nel nostro assortimento. Se vuole gliele ricordo, noi siamo in Franciacorta, in Veneto, in Alto Adige, in Toscana e in Sicilia. Quindi tutto quello che non c'è in questo assortimento è un target potenziale, caro Barisoni. Bene, io sono contento quando si muove un settore, c'è qualcuno che vuole ingrandirsi, vuole comprare a prezzi corretti. Grazie quindi. Grazie a voi. Ministro delegato del gruppo Santa Margherita Ettore Nicoletto, Marilisa Allegrini. Tornando sul tema del ministro, io chiedevo missioni maggiormente di sistema, maggiormente congiunte e non l'ordine sparso cui ci hanno abituato le regioni, i vari istituti in questi anni. Il ministro ricordava cosa ha fatto la Francia anche proprio sull'identificazione di un nome facile che ricordi quello che è il Made in France in questo caso. Voi su questo vi siete mossi come un'iniziativa abbastanza particolare, prego. Allora, io intanto ho sempre pensato che non possiamo chiedere al nostro paese, o solo chiedere al nostro paese cosa fa per noi, però dobbiamo essere consapevoli di quello che noi facciamo per il nostro paese. E per me è sempre importante il concetto di fare sistema. Quindi ci siamo messi insieme con un gruppo di aziende delle principali regioni produttive italiane e abbiamo fondato a metà del 2014 l'Italian Signature Wines Academy. Siamo i soci fondatori, sono 5 aziende, oltre ad Allegrini, Feudo di San Gregorio, Fontana Fredda, Frescobaldi e Planeta. Si sono aggiunti di recente anche Villa Sandi e Arnaldo Caprai. Fatturiamo in totale 350 milioni di euro, quindi pensiamo di fare sistema. E pensiamo di fare sistema non solo andando a fare promozioni, ma soprattutto orientandoci alla commercializzazione e alla formazione di manager del vino. Abbiamo fatto un accordo con la Yulm e pensiamo che i ragazzi che fanno da loro i master possono entrare nelle nostre aziende e noi non ci sono istituti che formano market manager per le aziende di vino e noi sappiamo che possono fare una bellissima esperienza presso di noi. Ecco, su questo voi quindi trovate una formula alternativa alla fusione, all'acquisizione, una specie di aggregazione per obiettivi, se ho ben capito, per portare, ed è un modo, ne abbiamo parlato molte volte, che funziona anche sui distretti industriali quando funziona, cioè uno ci può mettere in rete, cercare di fare massa critica senza arrivare a una fusione o un'incorporazione societaria. C'è un altro tema, e qui vengo alla fine di questo lungo approfondimento con Innocente Nardi, appunto col Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano. Allora, il rischio ogni tanto, l'abbiamo visto anche con l'Amarone, di cui l'Allegrini è una grandissima rappresentante, e ancora di più a mio avviso si corre con il Prosecco. Il Prosecco ha avuto un successo incredibile, ha superato, se ho ben visto, lo Champagne, poi mi ricorderà lei meglio dove, per volume, con una crescita del 240% negli ultimi 10 anni. Adesso vado a riprendere il dato perché è talmente imponente da lasciare sbalorditi. Non c'è il rischio poi, come facciamo in questo paese, di farne troppo, farlo ma non male, ma farlo così diverso da poi inflazionare la produzione? Con la Marone questo si era rischiato, cioè che quando qualcosa tira tutti si mettono a produrre prosecco e la qualità non sempre garantita, dopo un po' l'effetto boomerang dietro l'angolo. Ma io credo che sia importante precisare innanzitutto che il mondo prosecco non è un monolita in senso di un prodotto generico, ma deve essere articolato. Abbiamo dal 2009 che è stato fatto un riordino del mondo prosecco, una grande denominazione di 9 province tra Veneto e Friuli dove si produce il prosecco DOC e la zona storica, quella di Conegliano Valdobbiadene, dove si produce il prosecco superiore che ha il compito di dare valore. In questo momento i numeri sono indubbiamente importanti perché il Prosecco DOC ha prodotto 308 milioni di bottiglie nel 2014, il Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene ne ha prodotte 79 milioni, siamo chiaramente in una fase di espansione, però i consorzi dialogando tra di loro hanno deciso unitamente alle istituzioni, alla Regione Veneto in particolare, di contingentare l'offerta proprio per evitare che ci sia questa inflazione di immagine, anche se i compiti sono diversi. Il Prosecco DOC con i grandi volumi ha il compito di aprire i mercati, il Prosecco Superiore ha il compito di dare valore a questa denominazione. Infatti, per quanto riguarda il Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, il dato significativo di quest'ultimo periodo è che cresciamo in valore in modo particolare su mercati difficili quale la Germania, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Quindi credo sia un aspetto indubbiamente importante. Allora, grazie anche a Marilisa Allegrini e a Innocente Nardi. Domani continueremo dal Vinitaly a parlare di vino con i produttori. Oggi c'era la parte anche istituzionale, quindi il ministro Martina e il presidente Riello. Grazie a ambedue. Traffico. Ultima parte di Focus Economia, adesso non parliamo nell'ultimo quarto d'ora di vino, parliamo di borsa. È chiaro che il caso, come ricordavamo in apertura e come abbiamo già raccontato venerdì, è il caso Pirelli. Il titolo chiude in rialzo dell'1,77%, la cosa interessante però non è il rialzo, è il valore del titolo, perché è a 15,50 euro. Perché lo dico? Perché l'OPA verrà lanciata a 15 euro, quindi evidentemente c'è qualcuno che scommette che la partita Pirelli non sia terminata qui. Riepilogo per chi si fosse perso le puntate precedenti: gli azionisti di Camfin, che è la società che controlla Pirelli al 26% della Pirelli, e gli azionisti della controllata di Chemical China, CNRC, hanno firmato ieri l'accordo per una partnership industriale. Allora, la società di nuova costituzione acquisterà da Camfin le azioni Pirelli, lancerà un'OPA a 15 euro per azione sia sulle ordinarie sia sul risparmio, con l'obiettivo di togliere il titolo da Piazza Affari, quindi vi sarà poi, se l'operazione avrà successo, il delisting del titolo Pirelli. A questo punto China Chemical, che è un colosso da 36 miliardi di fatturato, entrerà e sarà il primo azionista da questo punto di vista della nuova società. Il 65% sarà di capitale cinese, il restante 35% sarà italo-russo, quindi Rosfnet, Tronchetti Provera, ma anche Unicredit e Intesa. E poi l'obiettivo di dividere in due parti l'attuale Pirelli: la prima delle due società si focalizzerà sugli pneumatici per auto, la seconda invece pneumatici per camion e macchinari pesanti, con l'obiettivo di fondersi con la cinese Elos. Allora, Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. No, ciao Condina, scusami, ho sbagliato oggi. Il Vinitaly si sente? No, purtroppo non si sente perché dobbiamo ancora iniziare a bere, ma conto di potermi portare avanti finita la diretta. Grazie, beato, ciao. Allora, sì, allora rispetto all'indiscrezione di venerdì, lo scenario è un po' diverso, perché qui non c'è solo la sostituzione di una quota Rosfnet con i cinesi, ma c'è proprio una maggioranza cinese. Perché il mercato porta il titolo a 15,50 euro, cioè più alto del livello a cui verrà rastrellato secondo l'operazione che raccontavo? Ma come giustamente dicevi tu, c'è uno scenario completamente diverso, c'è un cambio di controllo della società e quindi c'è l'OPA. Il mercato però diciamo che da questo punto di vista scommette sostanzialmente su due cose che poi insomma potrebbero anche essere la stessa. Da una parte vuole sostanzialmente un premio maggiore per ritirare il titolo dal mercato e quindi dice 15 euro sono pochi, ci aspettiamo comunque che questa nuova accordata alzi il prezzo dell'offerta. Dall'altra parte per esempio secondo gli analisti di Medio Banca, che oggi hanno tracciato alcuni scenari delle possibili prossime settimane di Pirelli, c'è anche chi arriva a ipotizzare che proprio perché questo titolo, questo prezzo di 15 euro non è così alto, potrebbe esserci qualcun altro che potrebbe pensare di lanciare un'OPA, quindi una contro-OPA su Pirelli. Insomma, da tutte queste diciamo speculazioni, da queste ipotesi, nasce il rialzo del titolo che è appunto sopra i 15 euro. C'è un altro elemento da non dimenticare, ma la calza detengono direttamente il 7% di Pirelli, una percentuale che se non fossero d'accordo con questo riassetto e con il ritiro del titolo del Piazza Affari non permetterebbe all'accoppiata Canfin China Chemical di ritirare il titolo da Piazza Affari, quindi anche da qui nascono alcune ipotesi di un possibile rialzo dell'offerta. Rialzo, ma la calza da questo punto di vista hanno, non dico un potere di veto, di blocco della cosa, perché, sì, perché non tu puoi ritirare un titolo solo se superi il 95%, il 7%, il titolo resterebbe a Piazza Affari. Mediolanum, cambiamo adesso argomento, Mediolanum più 2,70, Banco Popolare più 2,70% anch'esso, Popolare Emilia Romagna più 2,20%. Domani parte la riforma del Popolare da parte del governo, ma in realtà di nuovo sui titoli che citavo ci sono ipotesi di consolidamento, che poi vuol dire aggregazioni, fusioni. Sì, assolutamente, che poi è anche legato alla riforma, quindi la trasformazione in SPA, certo, che faciliterebbe la fusione, diciamo. ST Microelectronics invece è negativa meno 2% e abbiamo visto di nuovo debole Todds meno 1,60, ma ancora i conti? Sì, sono i conti, ma c'è anche una pessima seduta del lusso europeo e l'VMA, che è stato il peggior titolo a Parigi. Come vediamo Luxottica perde anch'essa l'1%, Moncler l'1%, anche Burberry a Londra è stato il peggior titolo, ha perso oltre il 2%. Allora, Fiat anche meno 1,80%, poi abbiamo visto un po' di debolezza sui titoli petroliferi, Eni meno 0,86%, è in assenza però di grosse notizie, ma chiedo conferma. Sì, diciamo titoli petroliferi abbastanza misti, perché poi Saipem ha guadagnato il 2%, forse Eni sconta anche più preoccupazioni di carattere strutturale su quello che diciamo sono le prospettive dei numeri di bilancio per quest'anno, considerato che insomma già l'anno scorso si è chiuso con un utile per Eni risicato e con un prezzo medio del petrolio ben più alto rispetto a quello che c'è oggi. Ancora tra i titoli si è risvegliata oggi A2A. Più 0,90%, qui sì su notizie di mercato, diciamo. Sì, c'è un'ipotesi diciamo allo studio da parte dei management delle due società di diciamo aggregare le rispettive centrali a gas. Come sappiamo queste sono appunto le centrali a gas, sono asset diciamo centrali in forte crisi per due motivi: da una parte il fatto che le rinnovabili sono sussidiate in maniera spropositata e dall'altra dal fatto che con la crisi economica è calata la domanda di energia e quindi i prezzi. Unendo i settori delle due società, cioè A2A e Sorgenia, si potrebbero realizzare delle sinergie che gli operatori vedono come positive appunto per A2A che è quotata. Oltre a ST Microelectronics e Fiat Chrysler e Todds, oggi cede anche Enel l'1,5%, Exor, la controllante del gruppo Fiat, perde l'1,40%, deboli anche Mediaset meno 1,1 come Luxottica e Moncler, Intesa San Paolo. Tra chi ha guadagnato oltre a Mediolanum più 2,70 e i titoli già citati vorrei aggiungere Telecom Italia più 1,1, Tenaris più 0,60 come Unipolsai e Salvatore Ferragamo. Per quello che riguarda poi gli altri indici, avete ragione, non ho dato l'indice complessivo, Milano alla fine chiude con un meno 0,52%, meno 0,65 invece Parigi, meno 1,20 Francoforte. Sui migliori e peggiori invece c'è o la giornata? Sì, abbiamo diciamo due titoli che vanno molto meglio di altri. C'è Molmed che fa più 12,8%, qui due giorni fa era stato siglato un accordo molto importante sulle terapie geniche con GlaxoSmithKline, e qui diciamo una reazione di borsa abbastanza scontata. Poi c'è da segnalare anche Saras che fa più 4,7%, qui siamo ai massimi da luglio 2011. Per Saras vale il ragionamento opposto rispetto alle società petrolifere. Saras diciamo sostanzialmente lavora poi il petrolio e crea manufatti petroliferi e quindi diciamo un basso prezzo del greggio non può che favorirla. E quindi ecco perché del rialzo. Grazie anche grazie a non ho dato alcuni indici americani, volete sapere anche del Dow Jones. Grazie intanto a Ceo Condina, ci mancherebbe. Dow Jones più 0,30% in media, S&P 500 più 0,14%. Vedo molti SMS su Pirelli. Allora, adesso vedremo quando e come l'operazione si chiuderà, perché come ricordava Ciò Condina c'è la quota di Malacalza che potrebbe bloccare l'operazione di delisting, di ritiro del titolo dal listino, avendo loro 7%. Vedremo se come il mercato oggi scommette, perché più di una persona o di un operatore ha comprato Pirelli a 15,40€, 15,50€, cioè un livello superiore decisamente al prezzo dell'OPA annunciato, se vi sarà un rilancio. Per quello che riguarda la domanda che molti fanno, l'italianità di Pirelli, l'accordo prevede una clausola a tutela dell'italianità, nel senso che servirà il 90% del capitale per fare delle modifiche sulle sedi, sugli investimenti e sui manager, che quindi per ora restano blindati in Italia. L'ipotesi a cui facevo riferimento di spezzare in due la società una volta completata l'operazione è presente nel piano industriale e la parte che andrebbe alla componente cinese è solo quella, così correggo alcuni SMS e messaggi che arrivano anche al sito di Radio 24. Tra l'altro vi ricordo che oggi è partito il nuovo sito di Radio 24, quindi non lancerò più Facebook, non lancerò più Twitter, solo il sito di Radio 24 va lanciato. Dicevo, attenzione che la componente che va che si fonderà con la cinese Elos è la parte che riguarda i pneumatici per camion e macchinari pesanti, non i pneumatici, gli pneumatici Pirelli che conosciamo tutti noi. Comunque adesso chiudo la puntata, la diretta da Vinitaly, lascio in un testimone immaginario la diretta che continua dal Vinitaly fuori salone. La Zanzara oggi appunto trasmetterà dalla Gran Guardia di fronte all'Arena in Piazza Bra a Verona, e quindi trasferiamo la radio dai padiglioni della Fiera alla Gran Guardia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani sempre in diretta dal Vinitaly per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.